Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, questi temi della giornata economico-finanziaria. Annuncio a metà pomeriggio dell'ABI, ossia l'Associazione delle Banche Italiane, che per le famiglie in difficoltà dal 1 gennaio sarà possibile sospendere fino a un anno, quindi per un massimo di 12 mesi, il pagamento delle rate del mutui. Il tema è delicatissimo e ne parleremo in apertura con il responsabile dell'Associazione Bancaria Italiana, fermo restando che è un'indicazione che l'ABI dà, non è un obbligo, non può darle un'associazione. Però cerchiamo di capire anche i dettagli, perché quando si annuncia che le famiglie in difficoltà potranno sospendere per un anno il pagamento delle rate, quindi di 12 rate o quelle che, a seconda di come è composto il mutuo, è chiaro che tutti drizzano le orecchie, ma vedremo di capire anche quali saranno le caratteristiche tecniche di chi potrà chiedere la sospensione del mutuo. Poi parleremo dei mercati che perdevano 1.5% in Europa, 1% a Milano. Uso il passato perché in realtà con l'apertura di Wall Street e poi con rafforzarsi anche della borsa americana, tutte le borse europee si sono riallineate. Adesso l'America guadagna 0.5% e lo guadagnano 0.5% anche Francoforte e Londra, Parigi più 0,2%, Milano invece invariata, ma appunto perdeva due ore e mezza fa perdeva più dell'1%. I titoli a Piazza Affari: Prismian più 2,5%, Parmalat più 2,1%, Luxottica più 1,6%, Buzzi Unicem più 1,5%, Eni più 1,3, Mondadori più 1,1, Intesa più 0,70, A2A più 0,6%. Chi perde di più? Pesante il calo su ST Microelectronics, meno 5% a questo punto, a 6,25€, l'Automatica meno 4,5%, sotto i 16 euro per azione a 15,60€, Fondiaria meno 2,6%, Fiat, parleremo di Fiat perché sono usciti oggi i conti trimestrali. Reazioni un po' incerte all'inizio, poi invece hanno nettamente prevalso le vendite, meno 2,3% sotto gli 11 euro per azione, seppur di poco, a 10,98 euro. Bulgari meno 1,80, Impregilo meno 1,6, Unicredit meno 1,5, come le CIR. Chiudiamo con Finmeccanica e Monte dei Paschi che perdono l'1,3%, Geox e Autogrill che cedono 1 punto percentuale, così come Unipol e Campari. L'euro invece si è rafforzato e praticamente sta toccando nuovi massimi dall'agosto del 2008 e quindi dal mese precedente allo scoppio vero e proprio della crisi finanziaria, al crollo delle borse. Ha toccato infatti quota 1,50 nei confronti del dollaro e adesso è 1,4984. Comunque sempre molto forte l'euro. Molti osservatori economisti ritengono che questa sia in qualche modo la exit strategy, la strategia di uscita dalla recessione adottata più o meno volontariamente dagli Stati Uniti, cioè tenere il dollaro molto debole per riequilibrare la bilancia commerciale, quindi permettere all'America di esportare qualcosa in più, e questo chiaramente non avvantaggia le esportazioni europee. Nel frattempo il petrolio è tornato sopra i 79 dollari al barile, non solo per la forza dell'euro, o meglio per la debolezza del dollaro, anche perché sono arrivati dati americani sulle scorte settimanali di benzina, calate più del previsto. In realtà oggi le nostre notizie in breve si occuperanno prevalentemente di conti di trimestrali, soprattutto americane. Sta uscendo un'immagine di un'economia americana in chiaroscuro dalle trimestrali, alcuni gruppi come già nei giorni scorsi macinano risultati positivi, altri invece mostrano e registrano ulteriori difficoltà. Nella seconda ora del programma ci occuperemo dello SMAU, perché oggi presentata l'edizione 2009 e di un settore che ha sofferto e non poco, come quello dell'information technology, e parleremo anche del tema che, ripeto, piace molto alla politica, piace molto agli opinionisti, dopo le dichiarazioni del ministro Tremonti, posto fisso, posto variabile, abbiamo visto dichiarazioni di vario genere, abbiamo dato conto ieri di quelle della presidente di Confindustria Marcegaglia, che diceva attenzione non torniamo al passato, un conto è non volere la precarietà e un conto è dire che il posto fisso è l'obiettivo, ma anche i distinguo in alcuni casi assomigliavano più a delle dissociazioni che distinguo di alcuni ministri del governo. E però il pieno sostegno che è arrivato ieri al ministro Tremonti da parte del presidente del Consiglio Berlusconi, ne parleremo, ripeto, alle 18:15. Ultima notizia prima di quella in breve, il numero per i vostri sms che non hanno notizie è sempre il solito 349-238-6666. Allora, partiamo proprio dalle trimestrali americane, poi avremo un approfondimento anche su quella della Fiat. La Boeing, il colosso americano, ha chiuso il terzo trimestre in perdita di $1,5 miliardi come conseguenza di oneri per $3,5 miliardi sostenuti per apportare modifiche ai nuovi modelli del 787 Dreamliner. È incredibile questa vicenda nella gara tra la Boeing e Airbus. Su chi dovesse vincere più commesse, l'Airbus ha puntato su un aereo che ha avuto moltissimi problemi, l'A430, quello a due piani per intenderci, l'enorme aereo che ha avuto molti problemi di realizzazione, ha fatto saltare i vertici del consorzio EADS che controlla Airbus, e sembrava che avesse vinto la sfida la Boeing con il suo 787 Dreamliner. Aereo di media percorrenza, non così grande come l'Airbus A430. In realtà ha avuto grossi problemi anche il 787 Dreamliner, quello che dovrebbe collegare gli aeroporti medi, non gli hub su hub, ma gli aeroporti medi. Tant'è che a portare le modifiche ai nuovi modelli del 787 e anche al Jumbo 747-4 è costato alla Boeing $3,5 miliardi con un rosso, con una perdita superiore a ogni stima degli analisti. Stiamo parlando di $2 per azione. E invece la crisi non c'è più per tutte le banche d'affari. Abbiamo visto i conti fantastici in molti casi, Goldman Sachs, JP Morgan e ancora Citigroup, che ha avuto un po' di difficoltà, ma insomma tutte le banche d'affari vanno bene. Oggi la volta di Morgan Stanley segna il primo utile in un anno a $757 milioni. Praticamente l'attivo significa $0,38 per azione contro previsioni di al massimo $0,30. L'anno scorso, nel terzo trimestre, Morgan Stanley aveva registrato una perdita, anzi scusatemi, un utile di $7,700 milioni, era l'ultimo utile prima del grande freddo della crisi, e comunque è tornata in utile a $757 milioni. Una brevissima rettifica, mi fanno notare gli ascoltatori che ho detto A430, no, è l'A380, ci mancherebbe, l'aereo dell'Airbus, quello a due piani, l'ultimo aereo prodotto dell'Airbus che segue la 330 e la 340, ci mancherebbe. Chiedo veni, andiamo avanti. Wells Fargo, altra banca anche se non investment banking, la Wells Fargo ha chiuso il terzo trimestre con un utile che è raddoppiato a $3,240 milioni, $0,56 per azione, il 50% in più di quanto non si attendessero gli analisti. E poi arriva anche l'Europa nella corsa agli utili bancari. Deutsche Bank, che pure aveva avuto problemi non da poco durante la crisi con alcuni investimenti in strumenti e in prodotti tossici, in carta su carta, ebbene Deutsche Bank stima l'utile del terzo trimestre a €1,400 milioni, superiore a qualunque previsione, visto che gli analisti puntavano a €800 milioni. Insomma, le banche d'affari e le banche in generale si sono già risistemate, e si sono risistemate così bene che battono ogni previsione degli analisti quanto a utile. I conti della Fiat, ripeto, ne parleremo più avanti, ma insomma l'utile della gestione ordinaria è a €308 milioni, i ricavi del gruppo calano del 16% e scendono a 12 miliardi di euro. L'indebitamento è stabile a 5 miliardi e 800 milioni di euro, con 8 miliardi e mezzo quasi di liquidità, e confermato l'obiettivo della gestione ordinaria a oltre 1 miliardo per l'anno in corso, per il 2009. La moratoria dell'ABI, quindi le banche italiane e i mutui delle famiglie. Un'ultima notizia prima di passare a questo tema. Il vice direttore generale della Banca d'Italia, Ignazio Visco, poco fa ha detto, leggo testualmente, si dice che basti aspettare e si vedrà, e che in Italia saremo in grado di superare la crisi meglio di altri paesi grazie anche alle piccole e medie imprese e alla capacità di risparmio delle famiglie. Io non credo che sia così. Secca e fredda la frase di Visco, che ha aggiunto: il motivo è si chiamano lacci e lacciuoli antichi, inefficienze ai servizi pubblici, ambiente socio-economico ostile alle imprese e basso livello di capitale sociale, a cui si sono aggiunti nuovi ostacoli. Quindi non crede Ignazio Visco che l'Italia uscirà dalla crisi meglio di altri, e immagino già che, essendo il vice direttore generale della Banca d'Italia, vi sarà anche una lettura politica delle dichiarazioni di Ignazio Visco, perché sappiamo tutti di così, una specie di dialettica strisciante tra il governatore Draghi e il ministro Tremonti. Primo tema, allora, e parliamo del mutui e della proposta dell'ABI che arriverà a breve di sospensione dei mutui alle famiglie in difficoltà. L'ABI ha lanciato, l'ho annunciato oggi pomeriggio, un piano di sostegno per le famiglie in difficoltà. Il comitato esecutivo dell'associazione, che è l'associazione delle banche italiane, ha annunciato infatti il piano famiglie, ossia la sospensione del rimborso delle operazioni di mutuo per un tempo massimo di 12 mesi, e cerchiamo di capire anche per chi e come, ricordando che in Italia i mutui sono 3 milioni e mezzo per un valore totale di 255 miliardi. 3 mutui su 4 in questo paese sono a tasso variabile. Siamo in collegamento, lo ringraziamo, con Alessandro Messina, responsabile del settore credit retail dell'ABI. Buonasera, dottor Messina. Buonasera. Allora, come funzionerà questa moratoria? Perché non bisogna creare confusione, e da quando scatterà? Il piano partirà da gennaio 2010, momento in cui sarà possibile dare un avvio operativo alle procedure di sospensione. Mm-hmm. Si tratta della sospensione dei pagamenti relativi ai contratti di mutuo per un periodo fino a 12 mesi, e la richiesta potrà essere fatta nell'arco del 2010. Quindi se io questa richiesta la faccio a gennaio, vale per fino a gennaio 2011, è chiaro, e se la facessi a novembre del 2010 varrebbe sempre 12 mesi? Assolutamente sì. Ecco, la moratoria che cosa sospende? La moratoria sospende il pagamento della rata del mutuo per 12 mesi. Fino a 12 mesi, in realtà si può chiedere anche di farlo per meno. Per meno. Quando poi la rata riparte, ripartirà nel caso di un mutuo a tasso variabile, con quale interesse? Allora, guardi, l'interesse per il mutuo resta lo stesso del contratto originario, e deve essere calcolato il fatto che ovviamente in caso di sospensione decorrerà un periodo di interesse anche sul periodo di sospensione, calcolato però allo stesso tasso contrattuale. Allo stesso tasso contrattuale. Detto questo, voi insomma non temete, io la domanda la devo fare per forza, che il sistema bancario non regga, cioè se improvvisamente tutti i 3 milioni e mezzo di mutui in essere decidessero di chiedere, perché gli conviene, una sospensione delle rate per un anno, il sistema bancario non avrebbe nessun problema? No, guardi, forse su questo non abbiamo detto una cosa importante. La opzione offerta al cliente riguarda solo alcune fattispecie, e in particolare quelle delle famiglie che si trovino in difficoltà per assenza, perdita del reddito a causa della crisi. Quindi chi perde il lavoro, chi si trova in cassa integrazione, chi cessa un'attività di lavoro autonomo e cose del genere. Queste fattispecie auspicabilmente non dovrebbero corrispondere ai 3,3 milioni di mutuatari, ma a una stima, noi abbiamo fatto un calcolo di un potenziale di 110 mila famiglie massimo, e ovviamente ci auguriamo, perché significherebbe che la crisi si vada ad attenuare, ci auguriamo che le richieste siano di meno. Ecco, non è un dettaglio, nel senso che se no, se uno dice per tutti c'è la possibilità di sospendere il mutuo per 12 mesi, voi vi trovate con 3 milioni e mezzo di richieste. Vorrei capire come si fa a stabilire che io sono una famiglia in difficoltà, cioè che cosa, quali caratteristiche devo avere, perché sa, a sto punto... Allora, noi oggi abbiamo un comitato esecutivo dell'ABI che ha individuato delle tipologie generali, quelle che sono riportate nel comunicato stampa che l'ABI ha emesso questa mattina, e che sono appunto la perdita del posto di lavoro dipendente, la perdita del lavoro di tipo parasubordinato o assimilato, la cassa integrazione, la cessazione dell'attività di lavoro autonomo, il caso di morte di membri del nucleo familiare portatori di reddito per la famiglia. Queste sono fattispecie che dovranno essere adesso essere declinate in modo un po' più dettagliato, e quindi è una parte del lavoro che dovremo fare in queste settimane da qui a gennaio per fare in modo che le procedure poi siano coerenti e esplicite, chiare anche per tutti coloro che ne devono usufruire, e quindi ovviamente poi verranno divulgate, spiegate, e ci sarà una modulistica che consentirà al cliente di fare la richiesta in base alla situazione in cui si trova. Ecco, veniamo a quest'ultimo aspetto, dottor Messina, cioè io sono una famiglia in difficoltà, nel senso che deve essere il capo famiglia, cioè deve essere colui che ha contratto il mutuo ad aver perso il posto di lavoro, avere la cassa integrazione, o basta che sia anche nel nucleo familiare? Questo è uno degli aspetti che dobbiamo definire nel dettaglio. Io credo che un ragionamento di buon senso, che però appunto poi va declinato in, come lei sa, in procedure, in regole, insomma, quindi per fare chiarezza ed evitare equivoci, un ragionamento di buon senso è che bisogna prendere il bilancio familiare e vedere la sostenibilità della anche rata rispetto al reddito. Potrebbero esserci casi in cui per vari motivi uno dei due coniugi perde il posto di lavoro, ma non è quello che è intestatario del mutuo, e magari a parità di reddito, in molti casi per fortuna le donne guadagnano quasi o come gli uomini, è chiaro che il danno sul bilancio familiare sia ugualmente, anche se ufficialmente io continuo ad avere il mio lavoro, mia moglie perde il suo in cassa integrazione, viene decurtato il nostro budget familiare, per cui rientreremo nella casistica. E questo quindi ci farete sapere diciamo ai diretti interessati anche quale tipologia, cioè se deve essere per forza l'intestatario del mutuo o basta che sia un membro che contribuisce al bilancio familiare, quindi l'altro coniuge di solito. Come le dicevo, questi sono gli aspetti tecnici che oggi, avendo ricevuto oggi stesso un input politico dal comitato esecutivo dell'ABI, noi tecnici ci metteremo a lavorare nei prossimi giorni, da subito, coinvolgeremo anche per quanto riguarda l'attuazione di questa misura e di tante altre già in essere, il governo, gli enti locali, le regioni, le associazioni dei consumatori, in un tavolo di attuazione molto pragmatico, e sicuramente arriveremo a delle esplicite indicazioni e procedure per tutti coloro che hanno bisogno di questo tipo di misure. Ecco, però insomma lei ci dice che l'orientamento è quello di considerare diciamo il bilancio familiare, non solo diciamo il singolo firmatario del mutuo. Questa è la necessità più che un orientamento, perché noi abbiamo un problema di questa misura nasce da la necessità di tener conto della crisi nella gestione del rapporto con la clientela, e quindi ovviamente quando parlo di famiglia parlo di bilancio familiare. Un ultimo aspetto di carattere tecnico, da quello che voi immaginate, visto che appunto i dettagli, che poi non sono tanto dettagli, ma insomma gli elementi anche di definizione devono essere ancora stilati, però voi immaginate che a questo punto io, che ho un membro, ho la moglie, oppure io ho perso il lavoro o sono in cassa integrazione, potrò dal 1 gennaio fare questa operazione, la modulistica, la richiesta, come avverrà, cioè tecnicamente, come tempi? Ci sarà un modulo che sarà cartaceo, sarà online, adesso ormai possiamo fare l'uno e l'altro, e che sarà ovviamente reso ampiamente pubblico nel momento in cui sarà pronto, le banche che aderiranno, perché non va dimenticato che le banche dovranno aderire su base volontaria, lo renderanno disponibile alla propria cretela e il cliente potrà fare richiesta al proprio sportello in base a questo tipo di procedura. Mi scusi, ma il fatto che le banche aderiscono in maniera volontaria non rischia di creare delle discriminazioni che poi portano anche dei ricorsi? Non è un provvedimento di legge, l'ABI non ha nessun potere di obbligo, di coazione nei confronti dei propri associati. Oggi il Comitato Esecutivo ha ampiamente discusso e approvato questa misura in linea generale, certo. Quindi sicuramente c'è un forte orientamento di gran parte delle banche, perché non tutte sono rappresentate nel Comitato Esecutivo, a sostenere questa misura. Io presumo che quindi molte saranno quelle ad aderire, non possiamo però non dire, perché sarebbe corretto, che comunque c'è necessità di un'adesione banca per banca. Ecco, e questo però potrebbe risolversi con la portabilità del mutuo, cioè se la banca X non aderisce alla banca Y, se YC, è chiaro che se il mutuo è portabile io mi trasferisco nell'altra banca, cioè potrebbe essere un modo anche per così rendere più competitive le banche tra di loro? Potrebbe diventare un elemento di competitività delle banche, ma anche questo dipenderà un po' da come, perché quella che lei introduce è un elemento sicuramente interessante di prospettiva, ma va un po' messo poi integrato con quelle che saranno i dettagli tecnici che daremo all'operazione, e quindi capire che livello di compatibilità ci sarà fra portabilità, sospensione, le varie opportunità. Non dimentichiamoci che oggi ci sono opportunità di sospensione già esistenti, o perché offerte da singole banche, che già oggi lo fanno, o perché promosse da fondi pubblici di sostegno ai mutuatari. È successo in Veneto, è successo nel Lazio, è successo in Liguria e così in altre regioni, e addirittura c'è un fondo nazionale che ancora non è partito, ci auguriamo parta presto, che anche in questo caso interviene proprio per questo tipo di esigenza. Un'ultima domanda, i dettagli tecnici, che ripeto poi sono sostanza importante, secondo lei quando arriveranno? Io direi che in 3-4 settimane di lavoro, quindi per novembre, saremo in grado di annunciare tutti questi dettagli. Perciò ampiamente in tempo prima che parta l'operatività. Che è appunto dal 1 di gennaio o dal 2 di gennaio. Grazie al responsabile settore Credit Retail dell'ABI, Alessandro Messina. Grazie a lei, arrivederci. Vedo molti messaggi, adesso ne risponderò ad alcuni dopo le informazioni meteo e la pubblicità. Fermo restando che, come si è capito, insomma, io perlomeno l'ho capita così, questo è un annuncio, la parte tecnica è con dei dettagli non da poco, come quello di quale chi deve essere in difficoltà, se chi ha firmato un mutuo oppure anche solo un membro del nucleo familiare. Questi dettagli devono ancora arrivare. Risponderò anche alla portabilità dei mutui, e anche alcune obiezioni. L'unica obiezione che insomma, mi sembra così un po' più speciosa è: vabbè, ma se la crisi è avanti per anni e uno non riesce a trovare lavoro, cosa faranno le banche? Ho capito, non è compito delle banche, adesso abbiate pazienza, occuparsi del mercato del lavoro e del venire incontro necessariamente al fatto che uno possa perdere lavoro per uno, due o tre anni. È chiaramente una misura tampone nell'ipotesi, come sentivamo, e nella speranza soprattutto che veramente nel 2010, soprattutto nella seconda metà, l'economia riparte e anche i posti di lavoro persi vengano riassorbiti. Non può essere una misura per 3, 4, 5 anni. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, non conosciamo, l'ha spiegato molto bene il responsabile dell'ABI, non ci sono ancora i dettagli tecnici, mi riferisco all'annuncio che le famiglie in difficoltà potranno sospendere i mutui in essere fino a un anno, fino a 12 mesi. Sulla portabilità, molti di voi dicono perché? Perché l'ABI ha chiarito che questo è un invito, poi le banche possono o non possono aderire. Allora, alcuni fanno notare che Unicredito dà questa possibilità già da un anno, lo scrivono alcuni dipendenti di Unicredito, ne prendiamo atto. Altri ironizzano sul fatto, vabbè, basta che poi non finisca come con i Tremonti Bond, che molte banche non hanno voluto. Altri così maliziosamente dicono: ecco perché in questo modo ti evitano altri costi, per esempio i costi di applicazione delle procedure di pignoramento. Vabbè, cerchiamo di non essere sempre troppo maliziosi. Il vero punto è, a mio avviso, capire come si decreterà che una famiglia è in difficoltà, e ripeto, se sarà solo l'intestatario del mutuo a dover essere in cassa integrazione o licenziato o aver chiuso l'attività, oppure se potrà essere anche il suo coniuge, nel caso più frequente. E poi occorrerà però, nel caso in cui alcuni gruppi bancari decidessero di non applicare questo invito dell'ABI, è un loro diritto, però occorre che la portabilità dei mutui sia totale. E su questo io ricordo che, nonostante il decreto Bersani, il governo attuale, il decreto Bersani era quello che stabiliva la portabilità del mutuo praticamente a livello gratuito, il governo attuale proprio a luglio ha dovuto introdurre anche le penali per le banche che ostacolavano la portabilità. Praticamente, se le banche ritardano la surrogazione dei contratti di mutuo oltre i 30 giorni dalla richiesta, devono pagare una penale pari all'1% del mutuo per ogni mese o frazione del mese di ritardo. Questo perché le banche opponevano molta resistenza alla portabilità del mutuo. Dopodiché anche noi siamo, diciamo, carnefici di noi stessi, perché se si va a vedere il numero di mutui trasferiti praticamente fino a un mese fa, sono 36.000 su 3 milioni e mezzo, che vuol dire che nemmeno l'1%, arrivare scarsi all'1%, forse anche un po' più di iniziativa. Comunque, questo è lo stato dell'arte sui mutui, e è invece irrisolta l'applicazione del tetto del 4%, per cui introdotta dal governo col pacchetto anticrisi, quando è stato chiesto alle banche di istituire titolari di mutui a tasso variabile la quota di interesse eccedente questa soglia. Non ho capito bene cosa sia successo lì, se ne occuperà comunque nei prossimi giorni anche Savadanaio con Deborah Rosciani. Altri commenti mi sembra che siano riassumibili nelle frasi e nelle risposte che vi ho appena dato. Adesso la borsa. Chiude in altalena Milano, più del resto d'Europa, meno 0,2% alla fine il FTSE MIB, meno 0,36% il FTSE All, in una giornata in cui le borse perdevano tra l'1 e l'1,5%, poi Wall Street è andata in positivo, Dow Jones mezzo punto percentuale di rialzo, ed ecco perché poi Francoforte ha chiuso con un più 0,4%, Parigi ha chiuso invariata, Londra più 0,1%. Giornata un po' incerta, ma sicuramente non negativa. Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Di Fiat, dei conti Fiat, parleremo tra un attimo, quindi saltiamoli per ora. Molte trimestrali in America e, come nei giorni scorsi, bene, in recupero, tutte inutili, le banche, e mi riferisco soprattutto a Wells Fargo, che ha macinato utili sorprendenti, ma non solo. Male, ancora in sofferenza invece le società legate non alla finanza. Anche Morgan Stanley è andata molto bene, Boeing ha sofferto e non poco. La giornata e poi i casi di Milano, prego. Sì, certamente Wall Street, come tu ricordavi, anche per effetto appunto di alcune singole storie che però danno il senso diciamo del recupero, ha cambiato un po' il senso della giornata, una giornata sottotono nella prima parte della seduta, che poi è andata progressivamente migliorando, anche se poi le chiusure sono state diciamo un po' lontane dai massimi, in particolare per Milano, che era ritornata in utile. E oggi non molto positiva il settore auto, anche al di là del discorso Fiat, bene le telecomunicazioni, bene il comparto alimentare, anche in Italia con Parmalat, la principale rappresentante di questo comparto, che si è ben comportata ed è stata tra le migliori del FTSE MIB. Male, diciamo così, dopo i conti e dopo l'aumento di capitale, l'automatica ST sono state le peggiori. Allora, mentre vedo che scrivono ascoltatori che anche la Cassa di risparmio di Asti aderisce, che anche Intesa San Paolo dà già questa possibilità, benissimo, scrivete pure quali banche già danno la possibilità di sospendere il pagamento della rata del mutuo, basta che non venga fuori che sono tutte, per cui abbiamo fatto un approfondimento sul niente. Noi andiamo avanti con i temi. ST Microelectronics pesante meno 5%, l'automatica anch'essa meno 4,6,7, fondiaria meno 2,90, Impregilo meno 2,1 e poi Fiat meno 2%. Allora, l'automatica di ST Microelectronics. Per quanto riguarda l'automatica, la reazione deriva ieri dall'annuncio dell'aumento di capitale, per la verità del convertendo, al cui servizio verrà anche deliberato un aumento di capitale. L'ottimo successo comunicato ieri sera da Mediobanca, che è stato il collocatore dell'operazione del bond, ha portato agli operatori che si sono ben riempiti le tasche del bond a lasciar perdere il titolo, perché è meno conveniente in questa fase per chi si è ricoperto appunto con il bond, e quindi ci sono state vendite anche consistenti, 5 milioni di pezzi ceduti, e non ceduti, insomma 5 milioni di pezzi trattati, e questo però ha pesato sul titolo. Per quanto riguarda ST Microelectronics, oggi i conti hanno evidenziato la settima perdita trimestrale consecutiva, ma le perdite sono state comunque inferiori a quello che il mercato si aspettava. Va detto che il titolo necessitava, diciamo così, di una correzione, perché dall'inizio di febbraio era salito da poco oltre 6 euro a 6,8, e quindi la correzione di oggi era anche diciamo così preventivabile, quindi più figlia di questa correzione che dei conti in realtà, che non hanno deluso il mercato, al contrario. Allora, mentre continua la lista delle banche che già aderiscono, il Banco Popolare, segnalano gli ascoltatori, poi verificatele perché io leggo gli sms, ma di solito sono affidabili. Il Popolare del Mezzogiorno farà sospensione del mutuo. Noi andiamo avanti con i temi di borsa. Vorrei capire che è successo Fondiaria SAI, o meglio è periodo di trimestrali, immagino che qui ci sia anche il piano triennale, meno 2,94%, e Impregilo meno 2,1, è sotto i 3 euro per azione nonostante l'annuncio del ponte sullo stretto. Sì, per quanto riguarda Fondiaria SAI, diciamo che il mercato sta un po' accolto in maniera negativa e sta ancora un po' studiando le carte di questo piano triennale 2009-2011 che l'amministratore delegato Marchionni ha definito realistico e prudente, ma che qualche analista invece ha già definito piuttosto ambizioso negli obiettivi. Ricordiamolo, Fondiaria SAI prevede di arrivare nel 2011 a un utile netto di 370 milioni di euro dai 91 milioni dello scorso anno, mentre per quanto riguarda Impregilo possono aver influito, secondo gli operatori, le parole del presidente Ponzellini, che ha sottolineato come la decisione sulla distribuzione del dividendo nel 2010, naturalmente sul risultato dell'esercizio 2009, dipenderà molto da quella che sarà la sentenza e la soluzione della vicenda sulla questione dei rifiuti di Napoli, in cui Impregilo era stata coinvolta lo scorso anno. Questa incertezza ha lasciato il mercato un po' freddo sul titolo, nonostante le buone indicazioni e buone prospettive per quanto riguarda il progetto del ponte sullo stretto che ricordavi tu. Una precisazione. Tu hai detto correttamente Marchionni, alcuni ascoltatori hanno capito Marchionne, no, Sergio Marchionne è il numero uno di Fiat, Fausto Marchionni è il numero uno di Fondiaria SAI, non c'è nessun errore, forse si è capita male la vocale finale. Adesso le informazioni per chi è in viaggio, poi i titoli che hanno invece guadagnato, a partire sempre tra quelli di maggiore capitalizzazione, da Parmalat, Prismian e Buzzi Unicem. Volete sapere però i migliori e i peggiori, ve li do subito. Tiscali meno 12,9, Snia meno 8,20, Montefibre meno, sulle risparmio non convertibili poco cosa, meno 6%, Cell Therapeutics meno 5,2. Il migliore, investimento e sviluppo più 10,8, le Camfin più 5,5% e Unilever più 3%, bene anche Banca Italis più 2,5%. minuti. Allora, Andrea Fontana, chiudiamo con i titoli che invece più hanno guadagnato. Parmalat, bene, in attesa della trimestrale di inizio novembre. Prismian, mi interessa, è il miglior titolo, più 2,3%. Sì. sì, due motivi per Prysmian: un certo ottimismo che ormai operatori e anche analisti stanno maturando sul mercato dei cavi sia per la fine del 2009 che per l'inizio del 2010, in particolare i pacchetti stimolo che alcuni governi stanno prevedendo per migliorare e rafforzare le reti di sistemi di trasmissione sia energetiche che di telecomunicazione. Ha portato attenzione su Prysmian, che tra l'altro oggi, domani meglio, inaugurerà un nuovo impianto per i cavi di alta tensione energetica negli Stati Uniti. Questi i motivi dell'attenzione su Prysmian. Per quanto riguarda Parmalat, la sensazione del mercato e degli esperti del settore alimentare è che il terzo trimestre abbia registrato un buon recupero, quindi i conti di inizio novembre sono attesi positivi. Da lì qualcuno inizia a ipotizzare che la società possa anche alzare gli obiettivi per la fine dell'anno, ecco perché ci si è ricoperti della giornata di oggi. Grazie Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore, i conti Fiat. Sta parlando Sergio Marchionne, siamo forse in grado di farvi ascoltare in inglese alcuni passaggi da conferenza. Fiat, allora, la sua trimestrale. I think it's fair to say that the quarter has certainly been in line with our own internal expectations. I'm pleased about the performance of all the sectors of Fiat Group. I think that the fact that we've been able to post positive results for all the sectors is an indication again of the resilience of the sectors and the ability to manage what has been an unprecedented decline in volumes, which has continued in the third quarter of this year. I think that, as the title of the presentation suggests, I think we're beginning to see the bottoming out of this volume decline. And while I think it's relatively difficult to try and predict performance in 2010, you know, I think it's fair to say that the worst is past. Allora, traduciamo praticamente a braccio, mi scuseranno gli ascoltatori se saltiamo qualche passaggio. Ho preso nota, dice, appena detto Sergio Marchionne, i risultati della Fiat nel trimestre sono stati in linea con le attese. Sono contento dell'andamento di tutti i settori del gruppo, positivi gli andamenti di vari settori del gruppo, che mostrano la nostra capacità di gestire un calo senza precedenti nei volumi di vendita. Se ho ben capito, come suggerisce il titolo, immagino, della presentazione del rapporto della trimestrale, dovremmo essere nella parte bassa, nella parte finale di questo declino dei volumi, quindi nella parte peggiore, e da qui poi risalire. È difficile fare previsioni per il 2010, però il peggio dovrebbe essere passato. Questa mi sembra l'ultima frase che abbiamo ascoltato di Sergio Marchionne. Comunque, Andrea Malan, Radio Cori, Sole 24 Ore, Andrea Malan del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Ti stavo iscrivendo all'agenzia di stampa in maniera un po' coercitiva. Allora, Andrea, tu hai seguito la conferenza stampa e le presentazioni dei dati della Fiat. Sì, Marchionne l'abbiamo appena ascoltato, dice, insomma, meglio di così non potevamo fare, dovremmo aver toccato il fondo, il peggio è passato. Il mercato però, insomma, giusto per non sbagliarsi, ha venduto Fiat del 2% a 11 euro per azione. È vero che era molto salita, Andrea? Esatto, era molto salita, e ricordiamo che ci sono anche dei dati della Peugeot che sono usciti oggi. Anche Peugeot, se non ricordo male, è andata abbastanza male in borsa. Quello che pesa probabilmente è l'incertezza sull'anno prossimo. Marchionne dice: abbiamo resistito bene quest'anno. Possiamo ricordare per esempio che l'utile netto, il trimestre, si è chiuso con un utile netto di 25 milioni, che è poco, ma è più della perdita che si aspettavano gli analisti. L'auto è andata bene nel terzo trimestre grazie agli incentivi quasi in tutta Europa, e ha compensato quelli che sono stati a volte dei veri e propri crolli dei volumi per i veicoli pesanti, per le macchine in movimento terra, anche per i veicoli commerciali leggeri. All'interno di Fiat Auto, per esempio, ricordiamo che i veicoli commerciali sono andati molto male come volumi e sono stati storicamente una delle parti di Fiat Auto che guadagnava di più. Quindi, in sostanza, questo è il quadro. Marchionne ha detto, in sostanza, per il 2010 dipenderà anche dagli incentivi. La linea del lingotto è, noi non li chiediamo, comunque diciamo che spetta al governo scegliere. Certo è che se gli incentivi venissero rimossi, il mercato italiano per esempio potrebbe passare dai 2 milioni ai 2 milioni e 100 di auto di quest'anno con gli incentivi a 1 milione e 7, 1 milione e 8, quindi con un calo dei volumi, un aumento dell'eccesso di capacità nelle fabbriche e la necessità di misure straordinarie. Quindi la scelta è un po' rimpallata nel campo della politica, però oltre a queste conseguenze diciamo sulle fabbriche, quindi il carattere sociale, ci sarebbero anche delle conseguenze sui conti del gruppo, che Marchionne ha stimato in un 300-400 milioni di euro di utile operativo in meno nel 2010 se gli incentivi non venissero rinnovati. Quindi c'è questa incertezza, il governo, ricordiamo che nelle settimane scorse ha mostrato dei segnali di disponibilità, però è chiaro che è un processo ancora in divenire e che pesa quindi ovviamente sulla valutazione anche del mercato. Dopo il nostro GR ti vorrei chiedere un'ultima cosa proprio sui conti Fiat. Io non ho capito, Fiat ha detto di avere 8 miliardi e mezzo di liquidità e 5 miliardi di debiti, alcuni istruttori sono rimasti un po' sorpresi, mentre chiarisco gli ascoltatori che stanno scrivendo che anche la cassa di risparmio di San Miniato, la cassa di la Popolare di Legnano, il Monte dei Paschi applicano la sospensione delle rate arretrate. Il tema è quello di apertura, l'annuncio dell'ABI che da gennaio si potrà sospendere il pagamento del mutuo per un anno per chi ha perso il lavoro in cassa integrazione. Alcuni ascoltatori fanno notare però che in alcuni casi le banche hanno obbligato a firmare una polizza a copertura, questo sarebbe un po' così, non esattamente in linea con quanto abbiamo appena ascoltato. Sono le 18:10 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Vorrei chiudere l'approfondimento sui conti Fiat e poi passiamo allo SMAU e alla proposta, o meglio diciamo al dibattito tra politica ed economia sul posto fisso e posto variabile. Andrea Malan, la cosa che molti ascoltatori hanno fatto notare insomma, è questa differenza tra la liquidità del gruppo Fiat nei conti oggi presentati e i debiti, 8 miliardi e mezzo se non ricordo male, e, ma debiti per 5 miliardi, 8 miliardi 4 di liquidità e indebitamento stabile 5,8 miliardi. Sì, la liquidità in realtà non è appunto netta ma lorda può esserci anche in presenza di un indebitamento netto. Cosa succede se io per esempio emetto un bond da 1 miliardo di euro, mi entra in cassa 1 miliardo di euro, quindi ho 1 miliardo di liquidità a fronte, liquidità lorda a fronte di 1 miliardo di debiti lordi, con una posizione finanziaria netta pari a zero. Esattamente quello che ha fatto la Fiat in questo trimestre, hanno emesso bond per circa 2 miliardi, raccogliendo quindi 2 miliardi sul mercato, che sono ovviamente a fronte dei debiti, ma permettono al gruppo una maggiore flessibilità nell'affrontare le esigenze dei prossimi mesi. E allora, fermo restando appunto che le dichiarazioni di Marchionne che abbiamo appena sentito, poco prima del GR, individuavano questo periodo come la parte peggiore per quello che riguarda le vendite, però lasciavano, come tu ricordavi Andrea, un punto interrogativo sulla presenza o meno di incentivi auto anche per il 2010. Io ringrazio il collega del Sole 24 Ore Andrea Malan. Grazie Andrea, do il dato di Parmalat perché alcuni di voi ci fanno notare che non abbiamo dato l'incremento di Parmalat oggi in borsa, chiedo Venia più 1,92% e passiamo a un altro tema, o meglio alla presentazione oggi dello SMAU, lo SMAU storico salone e fiera a Milano delle tecnologie, che aveva anche perso un po' di smalto in questi ultimi anni, oggi ha aperto i battenti la 46esima edizione. Io ho detto ha perso un po' di smalto, in realtà resta il più importante salone nazionale dedicato all'industria delle tecnologie informatiche. Il settore dell'information technology ha avuto un calo nei primi 6 mesi dell'anno del 9%. E Assinform, che è l'associazione di categoria di Confindustria, ha presentato oggi alcune richieste al governo per sostenere il settore. Il nostro Enrico Pagliarini ha intervistato Paolo Angelucci, che di Assinform è il presidente. La prima è che le banche finanzino queste imprese che vogliono fare progetti di IT. Praticamente IT uguale innovazione, uguale valore pluriennale uguale finanziamento a medio termine. Quindi stiamo lavorando con le banche, abbiamo avuto grande disponibilità, devo dire, su questo punto. Il secondo punto invece è un discorso che riguarda l'innovazione dell'industria IT, essa stessa come industria, perché l'IT è l'unica industria che allo stesso tempo verticale, perché produce prodotti per altre industrie, ed orizzontale perché serve per migliorare l'efficienza del paese. Quindi noi abbiamo chiesto che sia lanciato finalmente il programma Industria 2015 per l'IT, perché l'IT è un'industria come tutte le altre. Esiste un made in Italy tecnologico forte che va semplicemente portato all'attenzione. La terza richiesta è una richiesta molto particolare, ma secondo me che ha un grande senso, che è la che abbiamo chiamata rottamazione dei vecchi software applicativi. Perché noi abbiamo visto da una ricerca che il 50% delle imprese usa l'IT per abbassare i costi e solo dal 14 al 18% lo usa per incrementare i ricavi. Allora abbiamo identificato alcuni limitatori di questo utilizzo per il business. Il primo è la mancanza della fibra ottica, e abbiamo chiesto quindi la fibra ottica alle imprese e alle istituzioni. Il secondo è il fatto che molte applicazioni sono vecchie e quindi tutte le aree di business che sono nuove e quindi rivolte al solo esterno faticano a essere integrate. Quindi abbiamo chiesto questa rottamazione, che avrebbe oltretutto, e questa è la terza cosa, la più importante, che a questo punto cominceremo a dirlo sempre più spesso, noi essendo un settore che ha la più alta intensità di capitale umano nel prodotto, 26%, le do un paragone, l'automobile all'11%, vuol dire che qualunque supporto dato a questa rottamazione funziona in merito ai posti di lavoro 2,5 volte meglio che l'automobile e soprattutto migliora assolutamente lo stato di funzionamento delle imprese. Mi sembra che ci sia da ragionarci sopra. Queste quindi le richieste dell'industria dell'IT, che vuol dire Information and Communication Technology, per essere proprio precisi. Industria a tutti gli effetti, ha ragione, devo dire, il presidente di Assoinform. Volete ragionamento da New York? L'America resta positiva, più 0,24% il Dow Jones, più 0,4% il Nasdaq. La giornata di borsa, lo ripeto a chi si fosse appena messo in collegamento, è stata molto molto volatile. Borse che perdevano un punto e mezzo percentuale fino all'apertura di Wall Street, poi hanno chiuso e anzi hanno recuperato quasi tutto, alcune hanno chiuso in positivo come Francoforte più 0,4, Parigi invariata invece, Londra più 0,3, ha perso lo 0,22%, invece Milano con un euro che si conferma ai massimi dall'agosto del 2008, quota 1,50 sul dollaro, e un petrolio che ha rialzato la testa, anche questo come aggiornamento, siamo lì soprattutto per un dato sulle scorte americane, calate più delle attese, siamo ai $78 al barile. Ultima parte di Focus Economia, 18:18. Allora, le reazioni alla famosa frase, ormai famosa, celebre, del ministro Monti di lunedì. Per chi non l'avesse mai sentita, dubito o non l'avesse mai letta, o l'avessi mai letto sui giornali, la riascoltiamo. Io non credo, e ho sempre pensato e scritto, non credo che la mobilità sia di per sé un valore. Credo che per strutture sociali come le nostre e storiche, il posto fisso è la base su cui organizzi il tuo progetto di vita e su cui fai la famiglia. La variabilità del posto di lavoro, la incertezza, la mutabilità, la precarietà, per alcuni sono un valore in sé, in un darwinismo sociale che porta a costruire un mito di tutto questo. Per me onestamente no, può essere un pezzo della realtà che non puoi modificare, ma per me l'obiettivo fondamentale è ancora, se possibile, la stabilità base per la stabilità, sulla stabilità del lavoro, base della stabilità sociale. Ed è da due giorni che non si parla d'altro praticamente per quello che riguarda l'economia nazionale. Le reazioni infatti del ministro Brunetta, non si può tornare indietro, questo come risposta alle dichiarazioni del ministro Tremonti, e ancora il ministro Scajola, questo però ieri, la quota di flessibilità necessaria alle imprese, la presidente di Confindustria Marcegaglia, il posto fisso sarebbe in questo caso, cioè il ritorno a una logica del solo posto fisso sarebbe un ritorno al passato, pur ricordando che nessuno vuole la precarietà, men che meno le aziende. Poi ieri pomeriggio la dichiarazione del Presidente del Consiglio Berlusconi, in piena sintonia con Tremonti, il posto fisso è un valore. Tant'è che lo stesso ministro Tremonti ieri sera era stupito dal vertice dei paesi dell'Ecofin, dei paesi dei ministri economico e finanziario dell'Europa in Lussemburgo. Ha detto una cosa scontata, come dire: preferisco stare al caldo che al freddo. Però l'hanno preso molto seriamente i sindacati, nel caso specifico la CGIL, perché il segretario Guglielmo Epifani ha detto: se il governo è davvero interessato al superamento della precarietà, apra un tavolo di confronto. Gli ha risposto sempre ieri in serata: non scherziamo, così il ministro Maurizio Sacconi al segretario generale della CGIL Guglielmo Epifani. Sacconi poi è tornato questa mattina nel corso di un'intervista al TG3 a ribadire che insomma si è fatta molta polemica sul nulla, una tempesta in un bicchiere d'acqua. È una sorta di tempesta in un bicchiere d'acqua, soltanto la conferma di un approccio che noi abbiamo definito economia sociale di mercato, che corrisponde alla tradizione del nostro paese, che assegna un ruolo fondamentale alla famiglia e in essa a lavori di qualità che abbiano una prospettiva. Non ci sono atti regolatori che sono stati proposti, ipotizzati. Noi stiamo continuando in un percorso che vuole sostenere l'impresa in questa grande crisi e sostenere con essa i rapporti di lavoro. Il governo ha una robusta identità che ho definito prima secondo i criteri dell'economia sociale di mercato, cioè un'economia di mercato la cui capacità competitiva risiede nella stessa valorizzazione delle persone, del nostro capitale umano. Torna il concetto di economia sociale di mercato. Molti di voi fanno notare che la matrice, diciamo, di formazione del ministro Tremonti, del ministro Sacconi, del ministro Brunetta è il PSI, alcuni, come nel caso di Tremonti, i cosiddetti Reviglio Boys, e se non ricordo male l'attuale presidente della Lombarda Meo Martini da un lato e l'ex ministro dell'economia Domenico Siniscalco dall'altro, componevoli tre cosiddetti allievi di Franco Reviglio. Professor Michele Tiraboschi, che insegna nella cattedra che fu di Marco Biagi, cioè diritto del lavoro a Modena, e direttore del centro studi intitolato proprio al giuslavorista lavorista ucciso dalle Brigate Rosse. Buonasera. Buonasera. Allora, io giustamente alcuni ascoltatori dicono si è fatta tanta polemica, tutta politica. Io sono anche d'accordo. Così come sono d'accordo che, presa in un certo modo, la dichiarazione del ministro Tremonti, come lui stesso ha detto, è abbastanza una dichiarazione normale, cioè si può dire che nella vita il posto fisso possa essere l'obiettivo, anche perché ti dà più garanzie sui mutui, sulla capacità di programmare la tua esistenza rispetto al posto variabile in alcuni settori. Certo che se lo dice il ministro dell'economia è diverso che se lo diciamo io e lei, soprattutto se lo dico io. Allora, dove si trova la quadratura del cerchio? E la quadratura è che la stabilità è un valore nei rapporti sociali di lavoro, ma è una stabilità nell'occupazione, non nel posto fisso. Si può essere stabili nel mercato lavoro non stando ancorati e aggrappati a un'unica azienda, ma stando aggrappati a continue occasioni occupazionali. Visto che lei ricopre la cattedra che fu di Marco Biagi ed è appunto il direttore del centro studi del giuslavorista ucciso dalle BR assieme a tutta una serie, purtroppo, da Tarantelli ad Antona, di persone che si erano occupate di riformare i contratti e le relazioni industriali in questo paese, vediamo di capire l'obiettivo qual è: arrivare a una forma di flexicurity, come dice il professor Ichino, adesso cerchiamo di riprendere anche Tiraboschi, arrivare a una forma di flexicurity, e cioè dare, come mi sembrava fosse il suo pensiero, la possibilità ai lavoratori di essere tutelati quando perdono il posto di lavoro, ma anche, diciamo, non essere essere facilmente flessibili come contratto e quindi anche eventualmente licenziabili, oppure è più interessato a un progetto o proposta di contratto del lavoro che va in sostanza a irrigidirsi? Questa è una proposta che risponde a un altro nome, quello di Boeri e Garibaldi, anche qui due economisti del lavoro, e quindi contratti che vanno a irrigidirsi per quello che riguarda La forma del contrattuale, per cui prima si parte con un contratto di carattere variabile, poi si parte con un contratto di carattere interinale precario, poi viene irrigidito sotto forma di contratto a tempo determinato e poi diventa in definitiva un contratto a tempo determinato. Questo, diciamo, è l'obiettivo per quello che riguarda le forme contrattuali, le due proposte che sono arrivate sul tavolo, sulle due forme contrattuali. Ed è la domanda che molti si pongono in questo momento, per capire se abbia un senso ragionare su una forma su un completamento della legge Biagi oppure no. Per quello che riguarda invece la proposta di tornare al passato, vedo molti anche sms al 349-238-6666, vedo che molti dicono non si può tornare indietro, tornare al passato. Questa è la domanda che a questo punto faremo, chiedo scusa agli ascoltatori, domani al professor Tiraboschi, perché ci sono evidentemente problemi, penso anche forse nostri, di linea e di collegamento con l'economista. Mi dispiace, torneremo domani sul tema, purtroppo in diretta può capitare. Da Sebastiano Brisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani.